Torino, sì, è ancora a casa tua Ah, Samir dici? No, no, non c'è più, è partito. Ecco, allora non è che avresti un divano, letto, un lettino. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È mercoledì, è l'8 di giugno del 2011, sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. Ciao Matteo, l'anno scorso ho ospitato una mia amica che aveva perso l'amore della sua vita. Per 3 mesi ho ascoltato i suoi desideri di suicidarsi, ho ascoltato quanto la vita non avesse più senso per lei e tutto il repertorio di una persona abbandonata. Io l'ho coccolata, l'ho ascoltata con tanta pazienza, ma anche con meno pazienza mi sono arrabbiata. Sono stata onesta con lei, perché non penso che la fine di un amore sia la fine della vita. E dunque le ho cucinato ogni sera, io che non cucino mai, neanche per me. Però lei stava perdendo peso e quindi volevo aiutarla. Credo di essere stata brava, perché dopo, da quando si è ripresa e ha riconquistato il suo grande amore, ho sentito che mi vuole ancora più bene. E ogni tanto è lei che si prende cura di me. Ciao, Lara. Perché a tutti prima o poi, a tutti noi è capitato di diventare un buon samaritano. Non di doversi fermare lungo una strada e raccogliere un uomo spogliato e derubato di tutto. È sufficiente rimanere a casa propria, una sera qualunque, con altri progetti per la testa, e trovarsi un amico che ti piomba in casa, dal nulla, chiedendoti aiuto. Il più delle volte è ospitalità quella che chiedono, però non è solo ospitalità, cioè non è solo un letto in cui passare la notte, è molto di più. È il bisogno di avere qualcuno di fianco in un momento complicato. È il bisogno di condividere, di raccontare cose che altrimenti non si sarebbero mai raccontate. E in quei momenti lì, di solito, quando siamo a casa nostra, con un amico in lacrime, a pezzi per quello che gli è successo, e lui ci chiede aiuto, i rapporti vengono messi alla prova. E si capiscono un sacco di cose, su di noi, sull'amico e su quel rapporto lì. Se in questi giorni esatti, se magari ieri notte, o da una settimana, da un mese, spero per voi non da più di un mese, se in questi giorni avete qualcuno in casa, avete un amico in casa, oppure se l'avete aiutato di recente, se n'è andato da un sacco di tempo e ancora vi ringrazia, oggi è la puntata per voi. Ma anche se siete l'amico ospitato, quello in difficoltà, o se lo siete stati, io oggi sono qui. Vi faccio un esempio, perché mi è arrivato un messaggio, proprio perché oggi si parla di quello, perché mi è capitato Aldo tra capo e collo proprio ieri sera, a proposito di messaggi di persone ospitate, al contrario. Caro Matteo, io sono stata l'amica in difficoltà. Qualche mese fa me ne sono andata dalla casa in cui vivevo, in verità da poco, con il mio ormai ex ragazzo, in preda ai pianti e al senso di colpa, disperata ma decisa. Ho preso 2 cose e sono andata a casa di un amico. Com'è andata? Dopo quasi 3 settimane ho scongiurato il mio ex ragazzo a muoversi per lasciare come da accordi la nostra casa. Non ce la facevo più. Io che sono entrata in uno stato di difficoltà da quella porta, non dico che avevo bisogno di chissà che, ma sicuramente non di vivere a stretto contatto con una specie di drugole boschi, molto più depresso di lui, che si trascinava tra un divano e l'altro e teneva sempre le ante di casa chiuse, perché non voleva che entrasse la luce. Insomma, mi sono trovata io a fare da spalla a lui. Ciao, Chiara. 800240024 è il numero per chiamare in diretta, oppure c'è un sms, c'è un numero di cellulare per un sms, 349-238-6666. Sarebbe bello se proprio in questi giorni ci aveste uno in casa e mi raccontaste come è successo, se vi ha chiamato, se è capitato proprio sotto casa, vi ha citofonato, come sta andando, perché è vero che ci sentiamo sempre un po' meglio, no? Quando possiamo dare una mano quasi gratuitamente, nel senso che l'unico fastidio è vabbè, c'è uno sul divano letto, oppure c'è uno nell'altra stanza. Poi però dopo qualche giorno la cosa può diventare complicata, e quindi quella sensazione di sentirsi un pochettino più belli dopo un po' passa. 800240024. Maurizio, un mio amico, una volta tornando da una trasferta, mi chiama. Mi dice che era a Bologna, che aspettava la sua amante. Lei doveva passarlo a prendere in aeroporto, ma aveva fatto un incidente a Modena e distrutto la macchina del mio amico. Il tutto un mese prima del suo matrimonio. Dopo 150 vaffa, io che ero già a Reggio Emilia, sono tornato a Bologna a prenderlo, a prendere lei a Modena, riportati a Piacenza, con lui che è tornato a casa della sorella complice e la sua amante che ha dormito da me. A distanza di 11 anni, mi ringrazia ancora adesso. Ma è il mio messaggio preferito di oggi. il messaggio campione del mondo di messaggi che è arrivato sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui, è questo qua. Perché non sempre ospitare qualcuno può essere un dramma. Ho ospitato un ex collega cacciato di casa dalla moglie perché è rientrato ubriaco dopo una cena di lavoro. È stato a casa mia per un weekend, aspettando che la consorte sbollisse, ma non era minimamente in pena. Si sentiva in vacanza. Mi chiedeva: e oggi cosa facciamo? Preso dall'euforia di libertà, ha iniziato a proporre mille cose da fare, alle quali non mi sono mai opposto per spirito di ospitalità, ovviamente. L'ultima serata, dopo aver cenato con altri due colleghi in un ristorante, dice: oh ragazzi, conoscete quel posto tal dei tali? Sarebbe carino chiudere la serata lì. Ignari del locale, lo assecondiamo. Entriamo. Un posto molto elegante, ma in un attimo capisco che era un locale per scambisti. Avevo realizzato dove fosse finita solo alla vista di alcune inequivocabili situazioni. A quel punto mollo tutti, vado via, ma lo scimmione alla porta mi dice che se voglio lasciare il locale senza il fidanzato, lui per rimanere deve pagare 250 euro. Io dico sì sì, ok ok, e scappo. Il mio amico pseudo fidanzato, convocato per saldare, nel momento in cui sto per ripartire mi chiama al cellulare e mi dice di tornare indietro. Insomma, quelli del locale capiscono l'imbroglio del collega e ci cacciano via in malo modo. Fuori dal locale, lui mi guarda e mi dice: ma certo che ci hanno scoperto, scusa, dopo 10 minuti dall'essere entrati hai messo giù una piva che non finiva più. 800240024, io vorrei conoscere l'amico, vorrei sapere che fine ha fatto, come sta sua moglie, se qualcuno l'ha ospitato ancora, altrimenti semplicemente persone che stanno ospitando qualche amico. Visto che continuo a cercare di selezionare i racconti, i migliori racconti di tutta la stagione per la serata finale del 23 di giugno, visto che voi me li suggerite, ve ne leggo un elenco di quelli che mi sono arrivati e poi ve ne leggo un pezzettino. Allora, la puntata del giro all'IKEA, vorrei risentirla, oppure la puntata sulla crisi. Mario mi chiede se rileggo la puntata su Samir e poi la sindrome di Claire Rambeau, che manco mi ricordo. Simona, certo, Simona. Il weekend a Newcastle, oppure la puntata del parrucchiere cinese. Me la ricordo, mi ricordo soprattutto i miei capelli. Il primo giorno nella casa vuota, oppure la puntata sul primo giorno di convivenza. E poi, a grande richiesta, e questa ve la do già per certa, nella serata del 23 alle 21, qui nella sede di Radio 24, nella Sala Collina, leggerò la puntata su Nadal. E così, la scorsa estate ho preso un aereo e sono andato a Maiorca. Sono atterrato in una di quelle mattinate torride di mezza estate. Ho noleggiato un'auto, ho fissato il navigatore su Manacor e sono partito. Avevo fatto delle ricerche prima di partire e avevo scoperto che dopo aver vinto Roland Garros e Wimbledon, Rafa se n'era tornato a casa per prendersi un po' di vacanza e quindi era lì. Io avevo prenotato un albergo a Manacor per una settimana ed ero convinto che se fossi rimasto lì tutta la settimana, prima o poi l'avrei incontrato. Sono arrivato nella città di Nadal verso le 2 di un mercoledì pomeriggio. Il mio albergo era l'albergo di una città industriale dell'entroterra di un'isola del Mediterraneo, essenziale ma pulito, con una piccola televisione e una finestra che dava su una pianura consumata dal sole. Ho chiesto alla reception se sapevano indicarmi la casa del tennista e loro mi hanno detto che era facile da raggiungere, ma impossibile entrarci, perché mica credevo di essere il primo a voler incontrare Nadal. Il giorno dopo, mentre camminavo per la strada, improvvisamente ho sentito il tipico rumore di palla da tennis che rimbalza sulle corde di una racchetta. Mi sono guardato in giro sperando di trovare lui con il suo bel completino colorato e i capelli tenuti insieme da una fascia. Invece ho visto solo una struttura color salmone che assomigliava più ad un ristorante che a un tennis club, ma sul muro campeggiava la scritta Club Tennis Manacor, restaurante. Quello era sì un ristorante, ma era soprattutto un tennis club. Il tennis club, quello in cui Nadal era cresciuto. Eccomi qui, ora ero davvero vicino a realizzare quell'assurdo desiderio. Questa è solo una parte, ma la ripercorrerò tutta. La puntata su Nadal era il 12 ottobre del 2010, era la puntata numero 27. Vi ricordo che per partecipare alla serata, è una serata gratuita, è molto semplice. Inviate una mail a iosonoqui@radio24.it, segnate nel titolo 23 giugno, così sappiamo che parlate di quello, e poi nel corpo della mail mi scrivete quanti siete e i nomi di quanti ci saranno. Poi provvederemo a rispondervi confermandovi che ci vediamo il 23 giugno alle 21. Ieri sera, invece, non era il 23 giugno, ma intorno più o meno alle 21 mi ha chiamato Aldo. Sì, pronto? Matteo? Sì, chi è? Ciao, sono Aldo. Hey, ciao Aldo, come ciao. Stai? Ti ho pensato qualche giorno fa che ho visto Simona, come va? Guarda, abbastanza una merda, tu? Che è successo? niente, mi ha mollato la mia ragazza. Ah, mi spiace, Aldo. Pure a me. Senti, posso fare qualcosa? Posso aiutarti? Sì, sì, sì, guarda, Matteo, se... No, volevo chiederti se il tunisino è ancora a casa tua o... Ah, Samir, dici? No, no, non c'è più, è partito. Ecco, allora non è che avresti un divano, letto, un lettino, una brandina per qualche notte, non è che sto lì tanto. No, guarda, non è tanto quello, è che cioè la casa non è proprio mia, sai, è della mia fidanzata e lei adesso non c'è. Tu non è che hai un'alternativa? Magari... Come no, c'è un residenza a Rozzano che viene 70 euro a notte, se no mi metto a cercare una stanza in condivisione con qualche studente oppure non lo so, qualche ostello in giro. No, dai, Aldo, lascia stare, dai, vieni da me, ci penso io a Natalì, tanto il divano a letto è disponibile, prego, grazie, prego. Ci mancava che mi mandavi in giro per monolocali. No, Aldo, scusami, hai ragione anche tu, però, guarda, proprio per dirtela tutta, è che mi stupisce un po' il fatto che tu venga a chiedere ospitalità a me, nel senso che, cioè, noi alla fine ci conosciamo appena, no? Insomma, tu non hai un amico un po' più intimo, magari? No, è che Matteo, sono stato talmente una merda con la mia ex che nessuno degli amici mi vuole più vedere, capito? Quindi se veramente mi dai sta brandina 3-4 notti e poi vado via, davvero. Dai, ti aspetto, vieni quando vuoi. Grande. Ciao Aldo, ciao. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. Should I stay or should I go? E ieri, dopo cena, è arrivato Aldo. Mi è sembrato completamente diverso da quando l'avevo visto mesi fa. Più magro, con meno capelli e il viso pallido. Aveva addosso una camicia a scacchi e un paio di pantaloni blu. Ha appoggiato una borsa di fianco al divano e poi siamo usciti a bere una Coca-Cola. Che per me, appunto, significa sempre bere una Coca-Cola e poi giustificare il motivo per cui non bevo alcolici dicendo che è una questione di gusto e non di scelta. La solita pippa. Come se nulla fosse, Aldo è andato immediatamente al cuore della questione. L'aveva tradita, lei l'aveva scoperto e pam. Finita lì. Storia da manuale. Era chiaramente affranto, però non lo dava troppo a vedere. Diceva che dopo Simona si era ripromesso di non fidanzarsi più. Che le cose sono troppo complicate per come la vede lui. Solo che poi succede che ci si innamora. E quindi alla fine ci si ricasca sempre. Beveva un mojito e giocherellava girando la cannuccia nel ghiaccio. Aldo ha 42 anni. Viene dalla Liguria, ma vive a Milano da 20. Lavora in pubblicità. È un copywriter, anche se dice che la pubblicità è una brutta bestia. Lui è l'inventore di frasi tipo il lilla che invoglia o turista fai da te. E quando me l'ha detto io ho sorriso come a dire wow. E lui invece però non mi è sembrato particolarmente felice. Poi ci siamo messi a parlare della vita di coppia. Ora, probabilmente per lui non era il momento adatto per parlarne. E ha iniziato a dire che noi siamo, è vero, programmati per vivere in due, ma che il mondo intorno a noi va in una direzione opposta. Che da soli non si può stare, ma che dividersi a metà è un lavoro quotidiano. Io lo lasciavo parlare perché avevo la sensazione che controbattere non sarebbe servito a nulla. Aveva solo voglia di lanciare anatemi contro la coppia, contro le donne e tutto il loro mondo. Mi ha raccontato di tutti gli errori commessi nella sua vita e delle possibilità lasciate scappare. Però c'era qualcosa di strano, c'era qualcosa che mi spiazzava, perché più lui parlava delle sue disgrazie sentimentali e più a me veniva da ridere. Ma non da sorridere, con fare comprensivo, tipo, sì, certo. No, proprio da ridere. Come se il suo fosse un racconto tragicomico che apparteneva a qualcun altro e non a lui, lì di fronte a me. E io ho cercato di trattenermi, però a un certo punto, nonostante, sapete, no, tenessi la mano davanti alla bocca, oppure facessi finta di tossire per non far accorgere di niente, lui mi ha fatto notare che non era carino che io ridessi. E ovviamente subito mi sono scusato, ma guarda, ma non è che rida per te, non so nemmeno capire perché mi viene da ridere, però è irrefrenabile, è più forte di me, è come quando ti viene da ridere ai funerali. E non riuscivo a fermarmi. Io per un attimo ho temuto che mi tirasse uno schiaffone, invece stranamente ha iniziato a ridere anche lui. Non eravamo ubriachi, però ridevamo come due cretini. Lui ha continuato a parlare delle sue disgrazie, però con una leggerezza che prima non aveva. Alla fine mi ha anche detto lo spot più terribile che avesse fatto. Mi ha detto che era quello di una vernice che copriva la ruggine senza carteggiare. Se ne vergognava molto, ma aveva avuto un grande successo. Brava Giovanna, brava! E poi siamo tornati a casa. Aldo si è preparato a letto con le lenzuola che gli avevo fornito e ci siamo dati la buonanotte. Io mi sono messo a letto, però non avevo sonno. Ho letto un po' e poi mi è venuta sete. Solo che non volevo andare di là perché avrei svegliato Aldo. E allora sono andato in bagno per bere dal rubinetto, come da bambini a scuola. Solo che per farlo sono passato davanti alla porta, quella che dà sul soggiorno, e la luce era ancora accesa. Aldo era seduto sul letto, ma non poteva vedermi perché mi dava le spalle. Aveva addosso una maglietta di una compagnia telefonica e un paio di boxer. La sua schiena era più magra di quanto pensassi. Teneva la testa abbassata, forse a leggere qualcosa, forse a scrivere un messaggio col cellulare. Non so fare cosa. In quella posizione però mostrava la nuca e il collo in tutta la lunghezza. Quella è la parte più debole e più privata di un uomo. Quella che di solito è nascosta sotto il colletto della camicia, sotto una sciarpa, sotto i capelli. L'ho osservato per un attimo, in dubbio se dargli un'altra buonanotte. Poi invece sono rimasto in silenzio ad osservare la sua intimità. Quella che non aveva mostrato nemmeno parlandomi del suo fallimento di coppia. Perché alla fine nessuno è più vulnerabile di quando pensa di non essere osservato. Quando pensa di essere solo. E proprio per quello a un certo punto mi è sembrato di invadere la sua intimità osservandolo così di spalle poco prima che si mettesse a letto. Lui si è passato una mano nei pochi capelli che gli erano rimasti. E io sono andato in camera. Buonanotte. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani. E una di loro dice: ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena. E l'altra: sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita. Piena di solitudine, di miserie, di sofferenze, di infelicità. E disgraziatamente dura troppo poco. Magari non è come Aldo, magari non è abbacchiato, non è nemmeno pelato e non fa nemmeno il pubblicitario. Però se avete un amico in casa in questi giorni o ce l'avete avuto di recente, 80024 0024. Ciao Matteo, io sono stato ospitato ieri mattina dalla mia amica dopo aver scoperto che la mia ragazza sta pensando se sposare o no il suo ex di Boston. Ho assistito per tutta la gravidanza, notte inclusa, un'amica che aspettava un figlio di un altro e si sarebbe visto una volta nata. Poi è nata e tutti hanno fatto finta di nulla. 349-238-6666. A proposito della puntata di Nadal. La puntata di Nadal è la prima che ho sentito, per puro caso, del tuo programma. Mi sono chiesta chi fosse il pazzo che raccontasse certe cose in radio e soprattutto come mai Radio 24 ospitasse un programma così. E poi il giorno dopo mi ci sono sintonizzata ancora e poi ancora, fino ad oggi. Grazie Nadal. Saluti, Eva. Poi domenica sono successe due cose. Sapete come sono le mamme, no? Un po' come i papà per le figlie femmine. Quella spensieratezza un po' sconsiderata che si fa. E io che mi ero convinto che i gusti fossero mutevoli. Che quello che ci piace ci definisce. Dice chi siamo e quello che possiamo diventare. Ma voi, esattamente dove siete? Io sono qui è stata la storia di una vita riassunta in 10 mesi di programma, ma basterà una sola sera per ripercorrerla tutta. Giovedì 23 giugno alle 21, io sono qui live. Io sono qui live. Matteo Caccia ripropone e racconta una selezione delle migliori puntate della stagione. L'ingresso è gratuito. Per prenotare, inviate una mail a iosonoqui@radio24.it, indicando nell'oggetto 23 giugno e nel testo i nomi e il numero dei presenti. Io sono qui live, giovedì 23 giugno 2011. Un anno di diretta in una serata dal vivo. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao e sto qui. Nella foto di oggi siamo davanti al cancello di una grande villa. Una villa che si vede in fondo a un viale di ghiaia e di alberi. Potrebbe essere una villa, credo. Adesso la dico. Una villa palladiana, nel senso che c'è un po' di palladio in questo scorcio, c'è un po' di Veneto, bravo. Ci sono delle rose che si arrampicano su questo cancello e in primo piano c'è una bicicletta, è una mountain bike, una power competition ed è una KTM. Silvia Bazziga, 36 anni. Finalmente la bella stagione è arrivata ed io con la mia bici sono tornata a scorazzare per la campagna della Bassa Veronese. Qui mi sono fermata davanti a Villa Pindemonte, ad Isola della Scala, un posto incantevole dove vorrei sempre stare. Io sono qui. Silvia non ha detto bene dov'è, però si capiva che è da quelle parti lì. C'era del Veneto e effettivamente ci si vede, non so da che cosa, però andate a vedere questa foto, si vede che c'è qualcosa di Veneto. 800240024, ci sono persone che stanno ospitando o che hanno ospitato di recente degli amici, ma direi che Claire li batte tutti. Infatti dice: io qui supero tutti, amiche in difficoltà salvate e ospitate mille volte, ma quello è normale. Chi ha dato casa propria però per ospitare l'ex fidanzato lasciato dalla tipa per cui era stata precedentemente mollata? Questo è il record del mondo, direi. Lei è proprio in testa. Io sono quello ospitato dai miei genitori dopo convivenza finita. Ora invece voglio tornare da lei. Credo che ci siano veramente poche cose tristi come tornare dai genitori dopo una convivenza. Ma guarda, l'amico, cioè, anche se, aspetta, c'è uno che ha scritto una cosa giusta. Angelo, non so perché l'ha scritto. Ricordatevi che la moglie non è parente. Così, secco l'ha scritto. È vero che c'è più comprensione da parte dei genitori, però c'è una malinconia nel tornare nella cameretta, perché poi loro immediatamente, no, subito ti preparano da mangiare, la colazione, cosa vuoi? Ma come, non ti piacciono più le macine? Ma mamma, le macine le mangiavo, c'avevo 12 anni, adesso ne ho 35, magari faccio proprio colazione in un altro modo. Andate dagli amici. Ma dove si svolgerà l'evento del 23? Si svolgerà qui, nella sede di Radio 24, via Monterosa 91 Milano. E poi, sì, lo so, Alessandro mi scrive: ciao Matteo, sai che in internet gira un video dove per 10 minuti si vede a ripetizione il pezzo dello spot? Brava Giovanna, brava. Sì, perché Aldo me l'ha fatto vedere. 80024 0024, andiamo da Gigi, dalla provincia di Modena. Pronto Gigi? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, tutto bene. Dove ti trovi Gigi? Sono al lavoro, fuori, nascosto in un angolino. Che lavoro fai? Diciamo adesso assemblo motoscope. Motoscope? Sì, sono in trasferta presso un'altra ditta. Ma che cosa sono le motoscope, scusami? Le spazzatrici, quelle stradali, quelle per pulire, quelle che vedi che puliscono quelle che strade. Puliscono la strada, esatto. Si chiama motoscopa. Esatto. Ma ti ringrazio Gigi. Senti, tu invece hai ospitato un amico che aveva lasciato la fidanzata. Sì, lui ha lasciato la fidanzata e è venuto da me a chiedere asilo politico. È solo che ci è rimasto per 6 mesi. È rimasto a casa mia 6 mesi, dormendo sul divano e organizzando feste, e tutte le volte che incontravo una ragazza nuova io dovevo uscire di casa. A casa tua? Ma è un, esatto, ma è un genio questo tipo. Ma che fine ha fatto adesso? Insomma, dopo è tornato a casa dai suoi, io l'ho dovuto cacciare, è tornato a casa. È tornato tristemente dalla madre. È ancora dalla madre? Sì, sì, sì. No, adesso ho comprato casa. E... stiamo parlando di quanti anni, Gigi? Quanti anni ha? 5 anni fa. No, quanti anni ha lui, scusami? Ah, lui 37 adesso, quindi è successo che io ne avevo 31 e lui 32. Tu sei sposato, fidanzato? Sì, adesso convivo, diciamo, con la mia ragazza, ma non sono sposato. Non ti è mai capitato di... andare ospite da qualcuno? No, io no. Va bene, non ho mai stato ospitato da nessuno. Gigi, perfetto. Ti lascio tornare alle tue motoscope. Ok. Gigi, grazie mille. Ciao, Matteo, grazie. Ciao, buona giornata. Fa ridere anche voi il termine motoscope. Andiamo da Matteo in provincia di Treviso. Pronto? Sì, ciao Matteo. Ciao Matteo, senti, grazie per essere qui e devo chiederti però di abbassare o spegnere la radio. Guarda, sono su un'altra stanza e non ce l'ho proprio. Benissimo, e allora chi se ne frega? Tu avevi un amico, stessa situazione, però lui mollato, non ha mollato. Sì, no, è un classico, ma non si è capito tanto se lui ha mollato lei ha mollato lui, sai come vanno queste cose, sì. È una cosa un po' strana. Sì. Ad ogni modo è un classico, cioè questo mio amico, diciamo, si è mollato con questa ragazza perché lui l'ha tradita con la migliore amica di lei. Che in realtà migliore amica non era, dato che è andata a letto con un fidanzato. Vabbè, insomma, poi queste sono sfumature, vabbè, diciamo. Esatto. Certo. Niente, da quella volta niente, lui si è confessato con me e è venuto a casa mia. Abbiamo chiacchierato un po', solita situazione maschile, quindi con un po' di cicche, bevi vino. Cosa fai? Scusami. E là, tutto normale. Aspetta, Matteo, scusami, cosa vuol dire fumi cicche? Fumare delle sigarette. Ah, le cicche sono le sigarette, banalmente. Ma sì, sai, non fumando non ho idea, ma a Treviso si chiamano cicche? Sì, sì, ma non solo a Treviso, mi sembra. Vabbè, ma anche un altro bel chi se ne frega. Anche un altro bel chi se ne frega. Insomma, com'è finita? Che è diventato un appuntamento fisso, come il calcetto questo. Esatto, esatto, è diventato un appuntamento fisso che ogni settimana, una o due volte a settimana, vengono altri amici che hanno avuto la stessa situazione a loro volta, ci troviamo, giochiamo con la Play, ce la passiamo un attimo. Giochiamo con la Play. Senti Matteo, quanti anni hai tu? 28 ragazzi, 28 anni si gioca con la Play. Forse, guarda, Matteo, se è possibile giocare con la Play, è peggio che tornare dai genitori. Siamo davvero al limite. Ti ringrazio, Matteo. Buona giornata. Ciao, grazie mille. Mi scrivono che Isola della Scala a Verona è la città del risottino. Sì, niente, ogni tanto qualcuno vuole dare indicazioni così a caso. In che senso si sente odore di Veneto? Non lo so, ti dico che se tu vai a vedere questa foto capisci che in qualche modo arriva dal Veneto. Arriva invece il momento di leggere uno dei racconti che continuate a mandarmi. Io sono qui, @radio24.it. Questi racconti adesso li stiamo raccogliendo, ma diventeranno una cosa che è molto molto più grande. Come ogni giorno di quell'estate di fine anni Ottanta, si andava in canonica. Non perché credessimo troppo nel Signore, ma perché c'erano il biliardino e il ping pong gratis, e due o tre videogiochi a 200 lire. All'epoca avevamo quell'età di mezzo in cui un bambino di colpo diventa un adolescente. E quando da un giorno all'altro la voce si fa più scura, quando ti scopri a giocare coi Lego e pensi per la prima volta che stai perdendo il tuo tempo. I miei due amici del cuore avevano fratelli maggiori, molto più maturi. Giravano con le maglie della Best Company e ci tenevano a insegnare le cose ai più piccoli. Io, per contro, avevo due sorelle maggiori e avevo già esplorato i mondi di Erika Jong, trovando i suoi libri nei cassetti delle mie sorelle. Insomma, quel giorno i miei due amici del cuore erano più seri, avevano la faccia impostata. Guardavano prima le bambine e poi guardavano me e mi guardavano male, a ogni battuta. Dopo un'ora gli chiesi: «Ma allora? Si può sapere cosa avevo fatto?» E loro farfugliarono qualcosa circa gli adulti, che devono essere seri e pensare a cose difficili, che non si può sempre giocare, non si può sempre ridere. Non si può sempre ridere e non si può nemmeno sempre giocare alla PlayStation, ragazzi, e nemmeno tornare a casa dalla mamma. Io ringrazio Alessandro per questo racconto che era arrivato fresco fresco poco prima di andare in onda. Io sono qui, @radio24.it. Vi ricordo, è un piccolo progetto che stiamo portando avanti, si chiama Il racconto che vi racconta, una paginetta in cui raccontate qualcosa, un episodio della vostra vita che in qualche modo racconta meglio di voi, di chi siete, di chi siete stati e chi lo sa, magari anche di quello che diventate. Grazie a Tiziano Bonini, a Viola Bottoni, a Stefano D'Andrea e a Fabio Rudi Cantadori, che nonostante tutto è in piedi, ed è in piedi no, è seduto, ma è davanti al mixer. L'appuntamento è per domani in onda, mentre dal vivo è per 23 giugno qui da Via Monterosa 91 alle 21. L'ingresso è gratuito. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?